Odio anch'io, sì, è vero, ma non me ne vergogno. Provare un senso di colpa per qualsiasi tipo di odio è fuori luogo, perché il Dio Trino stesso, tre volte santo, odia. Egli dice tramite il profeta Isaia: «Io odio i vostri noviluni e le vostre feste solenni», Isaia 1:14. E ancora tramite il profeta Zaccaria: «Nessuno macchini alcun male in cuor suo contro il suo prossimo e non amate il giuramento falso, perché tutte queste cose io le odio», dice l'Eterno, Zaccaria 8:17. Dunque, l'Eterno non ha mai nascosto il suo odio o avversione per tutto ciò che è male. Perciò i credenti potevano dire: «L'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per lui un abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che scogita progetti malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli». Proverbi 6:16-19. Questo aspetto del carattere di Dio rivela che la santità e l'amore non si esprimono solamente nel fare del bene, ma anche nell'odiare il male. Anzi, non esiste vero amore se non vi è dell'odio, nel senso di rifiuto di tutto ciò che è ingiustizia. Così si sono espressi gli uomini che temevano Dio: «Il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa». Proverbi 8:13. E Gesù rivolge queste parole di lode alla chiesa di Efeso proprio perché aveva lo stesso atteggiamento di odio. «Tuttavia è questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io», Apocalisse 2:6. Dunque, in Dio Trino non manca l'odio. Non è però a questo tipo di odio che intendo per ora riferirmi. L'odio che nutro è più sottile, talmente sottile, che è possibile anche non scorgere una chiara linea di demarcazione tra l'odio puro e l'odio impuro, o tra quello vero e quello sofisticato. Potremmo ritenere il vero odio quasi diabolico, ma non lo è. Anzi, è divino. Affermo questo perché, come non può esistere una moneta falsa se non c'è né una vera, così non può esistere un odio sbagliato senza uno che sia giusto. Faccio un esempio. Quando vedo qualcuno nel bisogno, è per me istintivo aiutarlo. Faccio tutto il possibile perché stia bene, anche quando questo non comprende la motivazione del mio gesto, perché spesso è dall'esterno che le situazioni si comprendono meglio. Così mi faccio in quattro allo scopo di fargli del bene. Situazione più che comune a molti, istintiva e naturale. Se poi questa situazione si trova nell'ambito di affetti molto stretti, il desiderio di far del bene e di aiutare il prossimo è decisamente maggiore. Succede raramente, ma succede, che la persona bisognosa, per vari motivi, non voglia essere consigliata e aiutata. Non solo. A volte sputa sul piatto che gli viene offerto, rigetta la mano misericordiosa che gli viene tesa e, come se ciò non bastasse, risponde con del male. Il prossimo ritiene l'azione benigna un'offesa o un'intromissione illecita e, poiché l'amore viene scambiato per odio, viene corrisposto con l'odio. Nulla di nuovo. Il salmo profetico riferito a Gesù mette sulla sua bocca le seguenti parole: «Essi mi hanno reso male per bene e odio in cambio del mio amore». Salmo 109:5. Dunque, ricevendo dell'odio in cambio dell'amore, in me nasce una ribellione e la voglia di rivalsa. Cosa fare? Vendetta umana? Assolutamente no. Prima di tutto, non posso per nessun motivo vendicarmi, perché ho deciso di amare Dio e osservare ciò che mi ha comandato. Non farai vendetta e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono l'Eterno. Levitico 19:18. In secondo luogo, perché vendicandomi sbaglierei due volte, compirei una mia vendetta umana e farei del male al mio prossimo. Essendo una creatura come lui, chi sono io da produrre del male al mio prossimo? La vendetta appartiene solo a Dio, come lui stesso ha detto: a me appartiene la vendetta e la retribuzione. Deuteronomio 32:35. Allora cosa fare? Esiste una rivendicazione non condannabile di colpevolezza? È possibile avere una rivincita sul prossimo senza per questo cadere nel giudizio di Dio? Sì, colui che ha dato le leggi civili, morali e cultuali ha provveduto anche a questo. Innanzitutto, quando il prossimo si trova nel bisogno va aiutato, la scrittura si esprime chiaramente. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto ol, ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12:19-21. In questo passaggio Paolo cita il libro del Deuteronomio e quello dei Proverbi 25:21-22, omettendo la parte conclusiva: e l'Eterno ti ricompenserà. Alcuni studiosi pensano che il proverbio si riferisca a un rito egiziano nel quale l'uomo portava nella testa un recipiente con dei carboni accesi per dare una pubblica dimostrazione della sua penitenza. Ma comunque sia, il senso del discorso di Paolo è: tratta gentilmente il tuo nemico, perché ciò accrescerà la sua colpa. Tu assicurerai a lui un giudizio più tremendo e a te una ricompensa migliore. Interpretato diversamente, l'ordine di Paolo è di ricambiare il male con il bene, meno il capolavoro dell'amore, meno per indurre il nemico al pentimento che nel testo è rappresentato dai carboni. Molto probabilmente le due interpretazioni sono entrambe vere, perciò, se voglio veramente una rivincita fino in fondo, aiuto il mio nemico. Odiandolo dell'odio di Dio, gli farò del bene a più non posso, perché più lo aiuto, meno, mettendolo così maggiormente sotto condanna, meno e più egli è caricato di responsabilità. Io avrò il premio e lui sarà condannato. Questa è l'unica rivincita che mi è lecita. E l'unico modo nel quale, amando qualcuno, gli procuro del male, perché se gli facessi del male, a lui ne verrebbe del bene, e a me no, mentre facendogli del bene, io sarò premiato, e lui no. La rivincita avrà raggiunto il suo obiettivo. Seconda cosa, quando il prossimo non vuole ricevere nessun atto di amore, occorre lasciarlo in balia di se stesso, come fa anche Dio. Così è scritto nel libro dei Romani. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da far cose sconvenienti. Romani 1:28. Nessuno è pari a Dio come amore, forza e potere, eppure egli non violenta nessuno. Egli ha il pieno rispetto della sua creatura, non obbliga nessuno a ricevere il suo amore. E vero che Dio è onnipotente, ma c'è che una cosa che non può fare: guarire chi è sano, cioè chi si crede non bisognoso. Infatti, così leggiamo nel Vangelo di Matteo, Gesù non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità, Matteo 13:58. Quando una persona non si riconosce bisognosa, non accetta aiuti, anzi, considera un'offesa anche tutti quegli atti di carità che le si rivolgono. Non solo. Come un cane ferito morde anche il padrone che lo vuole aiutare, così alcune persone che vivono tutta la loro esistenza da feriti a volte mordono o si rivoltano contro chi li aiuta. E allora nasce il desiderio di rivincita. È inutile soffocare il sentimento di rivalsa, è più saggio indirizzarlo nel modo giusto. Quindi, se si vuole rendere il contraccambio senza incorrere nella condanna, si ubbidirà alla sua volontà. Se dopo aver fatto tutto il possibile per aiutarlo, dopo aver più volte proposto l'aiuto, dopo averlo scongiurato di cambiare l'atteggiamento sbagliato, dopo aver pregato e pianto egli non ascolta, occorre smettere di agire. Bisogna lasciarlo stare. È giunto il momento di ritirarsi dalla scena e abbandonarlo. Per quanto si soffra, lo si lascerà fare delle cose sconvenienti e portare le debite conseguenze dei suoi errori. Se Dio a un certo punto abbandona alla mercé delle situazioni la sua creatura, chi sono io ad avere un atteggiamento super protettivo? Perché la mia morale deve essere superiore a quella di Dio? Il padre della parabola del figlio prodigo molto probabilmente avrà provato a dissuadere il figlio minore dalla propria scelta, ma alla fine non gli ha impedito di prendere la strada che ha voluto. Così anche l'apostolo Paolo ha dato in mano di Satana Imeneo e Alessandro. Dunque, i figli, il coniuge, il prossimo, non mi appartengono, non sono mio possesso, mia proprietà, quasi che essi siano parte della mia vita al punto da consentirmi un potere illimitato, su di loro pari al diritto che ho su di me. Credere di possedere vizia o condiziona il nostro modo di rapportarci. Se i figli sono miei, ho un forte diritto su di loro. Se sono di Dio, limiterò di molto la mia autorità. Se il coniuge è mio, avrò un diritto su di lui quasi illimitato. Se è un dono di Dio, lo tratterò come tale. Se il prossimo è mio, egli mi è debitore. Se è di Dio, sono io debitore. Verso di lui e verso Dio. Il pronome mio sembra abbastanza innocente sulla carta, ma il suo uso costante e universale rivela una possessività illecita. Anche lasciare il prossimo in balia di se stesso è un atto di amore. È anche un atto di fede verso colui che è sovrano e dal quale dipende la vita, donata a me come agli altri. La malattia di voler gestire la vita degli altri, di decidere per il prossimo, con la stessa autorità con la quale gestiamo la nostra, è irreversibile. In certe situazioni, abbandonare il prossimo al proprio destino è più difficile che aiutarlo, soprattutto quando gli affetti sono profondi. Così, per recuperare gli orgogliosi, coloro che non si rendono conto di essere bisognosi, gli arrivati, i pieni di sé, gli autosufficienti, spesso esiste altro modo se non ubbidire alla loro volontà, lasciare che ricevano il frutto della loro condotta. E Dio compirà la sua opera. Il tema dell'odio, della rivincita, della vendetta, della retribuzione è scabroso per certi credenti, perché non sono abituati a pensare a Dio come colui che, per eccellenza, odia e fa vendetta. Leggiamo nella lettera ai Romani: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Romani mezzogiorno 19. E ancora nella lettera ai Tessalonicesi: Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo. 2 Tessalonicesi 1:8. Infine, leggiamo nella lettera agli Ebrei: noi infatti conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E altrove: il Signore giudicherà il suo popolo. Ebrei 10:5. Il credente non può ignorare questo aspetto di Dio. È vero che il Dio trino è amore, ma è altresì vero che egli si trasforma in un nemico, dando la giusta retribuzione ai malvagi per la loro condotta. E quando Dio si trasforma in nemico, è veramente un nemico. Così leggiamo nel profeta Isaia. Egli infatti aveva detto: essi sono veramente il mio popolo, figli che non agiranno falsamente. Così divenne il loro salvatore. In ogni loro afflizione egli fu afflitto, e non un angelo, ma la sua presenza li salvò. Nel suo amore e nella sua compassione li redense, li sollevò e li portò tutti i giorni del passato. Ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito, perciò egli divenne loro nemico e combatté contro di loro. Isaia 63:8-10. La tragica storia del popolo di Israele ha confermato questa triste realtà. Dopo aver salvato il suo popolo con eventi straordinari, dopo aver sopportato per tanti anni le loro lamentele, dopo averli richiamati più volte tramite i profeti, dopo averli scongiurati con lacrime, l'Eterno si è rotto, ha detto basta, ha perso la pazienza e si è convertito in nemico per far loro del male. Giosuè l'aveva capito molto bene quando avvertì il popolo: quando abbandonerete l'Eterno e servirete dei stranieri, egli si volterà, vi farà del male e vi consumerà dopo avervi fatto tanto bene. Giosuè 20:20. occorre riflettere molto seriamente riguardo a questo aspetto del carattere di Dio, e che l'Eterno Dio applichi queste verità nel nostro cuore. Abbiamo detto che poiché Dio odia, anche il credente è chiamato ad odiare. Qualcuno obietterà. Certo, è vero che Dio odia, ma i suoi atteggiamenti sono sempre giusti e santi, mentre l'uomo, quando odia, sbaglia. Non credo che si possa liquidare l'argomento in questo modo. Dobbiamo evitare di superspiritualizzare ciò che leggiamo nella parola di Dio. Dare un valore spirituale alle cose e parole divine senza un contenuto pratico è l'espediente disperato delle persone che non conoscono i metodi di Dio. Il credente che vive per lo Spirito Santo, che ha l'amore di Dio sparso nel suo cuore, realizza l'atteggiamento di Dio. Chi non conosce l'imbarazzante preghiera del salmista? Non odio forse quelli che ti odiano, o Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te? Io li odio di un odio perfetto. Essi sono divenuti miei nemici. Salmo 139, 21-22. E ancora, io odio gli uomini falsi, ma amo la tua legge. Salmo 119, 113. Nella sua preghiera, il salmista si riferisce all'odio, a quello perfetto. Se ne esiste uno imperfetto, per forza di cose ve n'è, è uno perfetto. E lo dimostra il fatto che proprio dove non ce l'aspetteremmo, nel luogo più santo, cioè nel cielo, vi è ancora sete di rivincita, di giustizia e di vendetta. Ecco infatti la richiesta dei salvati che si trovano alla presenza di Dio, secondo quanto leggiamo nella Scrittura, fino a quando, Signore, santo e verace, non giudichi e vendichi il sangue nostro tra gli abitanti sulla terra? Apocalisse 6 e 10. Se crediamo che in cielo non vi siano sentimenti o desideri ingiusti, dobbiamo pure accettare che la richiesta dei santi sia scaturita dalla santità. E questo dobbiamo accettarlo anche quando i credenti chiedono a Dio vendetta. Infatti, quando Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, ebbe occasione di ritorcersi nei confronti del re Saul intenzionato a ucciderlo ingiustamente, non lo fece. Ma si limitò a dire: «L'Eterno faccia giustizia fra me e te, e l'Eterno mi vendichi di te, ma io non stenderò la mia mano contro di te». 1 Samuele mezzanotte e 12. Davide non si fece giustizia con le proprie mani, ma la sete di rivalsa era presente nel suo cuore. Egli non riteneva tale sentimento un peccato, anche perché lo ripeterà più volte nelle sue preghiere. Salmo 18 e 47, 58, 10. Si può obiettare che Davide vivesse secondo la morale dell'Antico Testamento, ma l'obiezione è molto debole. Quasi alla fine della sua vita, scrivendo a Timoteo, Paolo gli ricorda che Alessandro il Ramaio gli aveva fatto molto male, e non si limita solo a ricordare il male ricevuto, atteggiamento che potrebbe aiutare coloro che affermano che la carità dimentica ogni cosa, ma continua col dire: gli renda il Signore secondo le sue opere. 2 Timoteo 4 e 14. Il desiderio di Paolo era che Alessandro avesse ricevuto ciò che aveva seminato. Potremmo chiamare tale atteggiamento sete di giustizia, ma qualsiasi appellativo diamo, resta sempre un desiderio di veder giustamente retribuito ognuno per il male compiuto. E sete di ritorsione. Ritorsione divina, ma sempre sete che sia Dio a fare la vendetta. Un perdono incondizionato, senza eccezioni e totale, non esiste. Dobbiamo essere onesti con noi stessi, perché a nulla serve soffocare gli istinti. La sete di rivincita è un sentimento innato in noi e datoci da Dio, perché Lui è il Dio delle vendette. E il peccato ad aver pervertito questa giusta inclinazione non è l'inclinazione in se stessa ad essere sbagliata, come del resto ogni altro istinto. La sessualità è giusta, il riposo è giusto, il lavoro è giusto, ogni istinto ci è stato dato da Dio e per questo è giusto, ma l'errato uso di questi doni trasforma il giusto in ingiusto. Chi non accetta di avere dei sentimenti di rivincita e di santo odio secondo la volontà di Dio è destinato a disprezzare gli altri, a sentirsi superiore, a vivere fuori dalla realtà, a vivere un cristianesimo idealista, astratto, scontrandosi con se stesso e con la realtà. Desiderare che gli ingiusti siano condannati alle pene eterne, che il malvagio riceva la giusta retribuzione ora e in cielo, non è necessariamente un sentimento depravato. È necessario mettere chiarezza. Non è Dio che manda all'inferno le persone. Non è Lui che vuole il dolore e la sofferenza per il prossimo. Ma la colpa ricade sull'uomo. Gli uomini sono già incamminati verso l'inferno, verso il dolore e il pianto. Il Dio Trino ha dato all'umanità giuste leggi perché sia felice, ma se l'uomo non ne vuole sapere, egli è libero di scegliere ciò che vuole, anche se non è libero di scegliere le conseguenze delle sue scelte. Dio non costringe nessuno, si limita ad allungare la mano di riconciliazione come fece con Giuda, l'apostolo che tradì Gesù. Dato che il suo amore viene rifiutato, Dio li abbandona al loro destino, alle conseguenze delle loro decisioni. Dio non può fare altro. Se facesse altro, violerebbe il dono più grande che ha dato alla sua creatura, la libertà, l'indipendenza. Così, se ho l'amore di Dio, devo accettare di possedere pure il suo odio. Odio per il peccato, per l'ingiustizia. Odio l'atteggiamento di chi per orgoglio non vuole essere amato e lo abbandono alla mercé di se stesso. Odio l'atteggiamento del mio nemico e gli faccio del bene. Mi è stato sempre insegnato che siamo chiamati ad odiare il peccato e non il peccatore, ma questa verità, come tutte le verità, va messa nel suo contesto. È vero che Dio ama il peccatore e odia il peccato, ma ciò non gli impedisce di avere degli atteggiamenti di condanna nei suoi confronti. Sta scritto: l'Eterno prova il giusto, ma l'anima sua odia l'empio e colui che ama la violenza. Salmo 11:5. Solo così possiamo comprendere le imprecazioni contenute nei salmi, originate dall'intenzione dei salmisti di essere realisti. Nella tua bontà distruggi i miei nemici, fa perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo. Salmo 143:12. Se non accettiamo questo desiderio di giustizia e di rivalsa, non ci è possibile comprendere gran parte della parola di Dio, e ne è un esempio il profeta Geremia, un uomo che ha amato profondamente il suo popolo e pianto per esso, eppure pregò: «O Eterno, tu hai visto il torto da me? Subito, difendi la mia causa. Hai visto tutto il loro spirito di vendetta, tutte le loro macchinazioni contro di me. Hai udito i loro insulti, o Eterno, tutte le loro macchinazioni contro di me. I discorsi di quelli che si levano contro di me, ciò che meditano contro di me tutto il giorno. Osserva quando si siedono e quando si alzano, io sono la loro canzone. Ripagali, o Eterno, secondo l'opera delle loro mani. Rendili duri di cuore, la tua maledizione sia su di loro. Inseguili nella tua ira e distruggili da sotto i cieli dell'Eterno». Lamentazioni 3:59-66. Mi è molto difficile pensare che Geremia non volesse dire quello che ha detto. Anche egli, come i santi in cielo, come Davide e altri uomini di Dio, desiderava che i malvagi si cibassero del frutto della loro condotta e si saziassero dei loro propri consigli. Proverbi 1:31. Rivolgendosi ai suoi discepoli, Gesù disse: «Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie». Giovanni 7:7. Il cristiano è perseguitato, deriso e ucciso, non fine a se stesso, ma perché il prossimo odia ciò che è in lui, cioè la verità che è Gesù Cristo stesso. Capovolgendo la prospettiva, anche il cristiano desidera il male per l'empio, non perché odi l'empio, ma perché odia il male che vi è in lui. Se il peccato è un atto di debolezza, Dio ne tiene conto, ma quando il cuore di un uomo è simile a quello del diavolo, come non vi è riscatto e perdono per Satana, così non ve ne sarà per lui. Desiderare la perdizione del malvagio recidivo è un sentimento di giustizia, e chi non vuole avere tale sentimento, mi chiedo che tipo di giustizia possegga. Chiedere a Dio di distruggere i malvagi non sembra molto cristiano, ma la richiesta che il bene vinca sul male è una preghiera suscitata dallo Spirito Santo. Del resto, tutti noi desideriamo che vinca il bene quando invochiamo il ritorno del Signore Gesù Cristo. Il ritorno di Cristo sulla terra sarà il colpo definitivo inferto ai malvagi, perché saranno puniti di eterna rovina. respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. 2 Tessalonicesi 1:6-9. Non si può desiderare che vinca il bene senza desiderare che i malvagi siano puniti. Occorre guardarci da un moralismo che ha la sua sede in sentimenti umani romantici. E anche per questo, alcuni traduttori della Bibbia hanno sostituito il termine vendetta con la parola punizione. Salmo 58.10, versione riveduta Luzzi. La miglior vendetta è il perdono. Quante volte ho sentito questa affermazione? A rifletterci bene, con questa frase si vuole dire questo: io sento il desiderio di rivalsa, ma non voglio e non posso farla. La vendetta appartiene a Dio. Però devo colpire senza peccare e il mio modo per avere una rivincita è perdonare. Vi è dunque un perdono che non è dato solo per perdonare, ma anche per colpire con un'arma lecita. Se mi vendicassi con la vendetta sarei colpevole, mentre se rispondo con il perdono io sono giusto, e intanto ottengo ciò che voglio, cioè colpire il mio nemico. Quando Giuseppe, il figlio di Giacobbe, fu venduto dai suoi fratelli, era anch'egli un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Nel suo cuore aveva certamente il desiderio di rivalsa perché in seguito li fece soffrire, e non poco. Alla fine però li perdonò. Era la migliore rivendicazione che poteva fare verso i suoi fratelli, i quali erano confusi più che mai, anche perché rendere confuso chi ti ha fatto del male con l'amore non è una soddisfazione da poco. Sta scritto: vinci il male con il bene. Il male si può vincere con il male, ma anche con il bene. Un governo ingiusto si può rovesciare con una rivoluzione. Come si può continuare a rimanere sottomessi in attesa che Dio operi? Lo scopo di fare del bene è comunque sempre vincere, non perdere. Se voglio vincere il mio nemico, se voglio una rivalsa nel giusto modo, gli farò del bene. Politica divina dalla quale la diabolica si avvicina. Molto, sono sincero, non vorrei odiare secondo il metodo di Dio, vorrei farlo a modo mio. Il mio moralismo è forte, la mia cultura pseudo-cristiana mi violenta con forza, mi si scaglia contro ma non posso esimermi. Se amo veramente, devo anche odiare il male e l'ingiustizia secondo Dio. L'odio verso il male è una prova che ho veramente l'amore di Dio. Diversamente, è moralismo, perbenismo, sentimentalismo, sentimenti che hanno origine da una natura corrotta. Il credente di oggi che parla solo di amore e non presenta anche l'odio di Dio, anziché evangelizzare moralizza, insegna un'etica umana e per questo non comprende il volere di Dio. Dobbiamo parlare dell'amore di Dio, ma un amore coniugato all'odio che nutre per chi compie il male, l'Eterno. Odia chi ama la violenza. Salmi 11, 5. Se si desidera la soppressione del peccatore o una sua punizione, non è tanto per il peccatore in sé, ma perché il peccato venga eliminato. Quando l'Eterno Dio aveva stabilito la pena di morte, lo scopo era di togliere il male e non la sete di vendetta. Deuteronomio 17:12. Quando il peccato è l'espressione volontaria di una persona, distinguere peccato e peccatore è solamente questione di dialettica, cioè arte di ragionare, e su questo piano l'uomo viene sempre giustificato. Quindi, a scanso di equivoci, il desiderio di rivalsa, di odio, di ritorsione, non è quella profonda avversione o ostilità verso qualcuno, ma quell'atteggiamento di giustizia che si inserisce in un contesto di ingiustizia, la quale produce delle conseguenze negative sul prossimo e sulla società. Se oggi prevale il male è perché non vi è il giusto atteggiamento nei suoi confronti. La parola di Dio non ha mezzi termini quando si tratta dell'odio divino, cioè dell'odio perfetto. Quando il tuo nemico cade, non rallegrarti. Quando è atterrato, il tuo cuore non gioisca, perché l'Eterno non veda, e gli dispiaccia, e non allontani da lui la sua ira. Proverbi 24:17-18. Non ho mai letto nessun commento su questo ordine dell'Eterno, ma secondo questa traduzione Dio mi ordina di non rallegrarmi se il mio nemico porta le conseguenze del suo comportamento affinché egli possa continuare il suo giudizio nei suoi confronti. Poiché questo concetto ha palesemente del vendicativo, la traduzione della Bibbia di Salvatore Garofalo rende: quando il tuo nemico cade, non rallegrarti. Quando è atterrato il tuo cuore non gioisca perché l'Eterno non lo veda e non sia male ai suoi occhi e non rivolga la sua ira da lui a te. Considerando le cose da qualsiasi punto di vista, la mia morale umana si ribella ad un simile scopo. La mia morale, non quella di Dio. Perciò, se ho ben capito, non devo peccare verso il mio prossimo, perché non ne sia avvantaggiato. Altrimenti la colpa, anziché ricadere su di lui, ricade su di me. E questo è calcolo, molto simile al calcolo di chi ha sentimenti negativi. Dio mi ordina di non rallegrarmi se il mio nemico porta le conseguenze del suo comportamento perché egli possa continuare il suo giudizio nei suoi confronti. Forse qualche verità mi sfugge in questo comandamento, e la mia morale umana rimane perplessa. Ripeto, la mia morale, non quella di Dio. Dunque ciò che mi deve spingere ad accettare i metodi divini dell'odio è che esso produce delle conseguenze negative solo al prossimo, mentre se agissi con l'odio umano questo reca del male non solo al prossimo, ma anche a me. Non vi è alternativa. O accetto di odiare secondo Dio, o sono comunque colpevole. Una cosa però deve essere chiarita. L'odio di Dio procura nel cuore del credente un profondo dolore. Il vero amore odio simile a quello del profeta Geremia. Le mie viscere, mi contorco dal dolore. Oh, le pareti del mio cuore. Il mio cuore batte forte dentro di me. Io non posso tacere perché, oh anima mia, ho udito il suono della tromba, il grido di guerra. Geremia 4:19. Amore e odio non sono dunque due atteggiamenti separabili come non lo sono la fede e le opere, ma sono un tutt'uno. Troppi credenti amano rifiutando contemporaneamente l'odio divino. Ma, come la morale umana conduce per mano l'uomo all'inferno, così conduce il credente verso una vita scorporata dalla realtà. Amore e odio sono inseparabili anche perché ci sono stati donati ambedue da Dio. Ecco una parola autorevole dello psicologo cristiano Paul Tournier. Tutti ammettono che nel cuore umano ci è un bisogno di amare. Ciò che io sostengo qui è che ci è anche allo stesso tempo, nello stesso cuore, un bisogno di odiare. Violence et puissance. Accettare questa realtà è salute psichica e spirituale, produce pace, comunica serenità, evita situazioni sconvolgenti, indirizza la mente ad una maggiore comprensione di ciò che succede sotto il sole. In definitiva, umanizza l'uomo. La preghiera di Davide, fatta 3000 anni fa, espressa nel Salmo 101, è più che mai attuale. Io canterò della tua benignità e giustizia, canterò le tue lodi, o Eterno. Avrò cura di condurre una vita integra. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia. Io detesto il comportamento di quelli che si sviano. Non mi lascerò contagiare. Il cuore perverso si allontanerà da me. Non voglio saperne del male. Sterminerò chi calunnia in segreto contro il suo prossimo. Non sopporterò l'uomo altezzoso di occhi e superbo di cuore. I miei occhi saranno sui fedeli del paese e li terrò vicino a me. Chi cammina con integrità sarà mio servo. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa. Chi proferisce menzogne non reggerà davanti ai miei occhi. Ogni mattina annienterò tutti gli empi del paese, per estirpare dalla città dell'Eterno tutti gli operatori di iniquità. Salmo 101. Davide si era proposto di essere santo e integro. Egli non desiderava commettere nulla di sbagliato, e per questo non aveva per amici l'orgoglioso, l'ingiusto, il menzognero, il calunniatore, l'ingannatore. Amava i fedeli e i retti di cuore, odiava ogni cosa illecita e malvagia. Io odio l'adunanza dei malvagi e non mi associo con gli empi. Salmo 26:5. Dopo 3000 anni dobbiamo accettare che i principi di Dio non sono cambiati. Il credente vive nel mondo e non può certamente estraniarsi, perciò egli abita in mezzo a persone che non hanno la morale di Dio e con loro deve relazionarsi ogni giorno. Ma una cosa è dover vivere, un'altra è convivere. Io sono costretto ad andare dal salumiere che bestemmia tutto il giorno per comprare del salume, e non posso evitare di lavorare con il mio collega che è un adultero, ma di queste persone non ne farò degli amici con i quali spartire gioie e dolori, o partecipare alle cose più intime. Io cercherò la compagnia di persone che amano Gesù Cristo come me, che desiderano parlare della parola di Dio, che odiano l'ingiustizia con il mio stesso sentimento. Questo non significa che non abbia amicizie con gli increduli, ma saranno amicizie a livello umano. Saranno rapporti di doveri. Questo è quanto Davide voleva dire. Perciò, dobbiamo accettare che Dio non può fare prevalere il bene senza che questo venga annientato. Non vi è scelta senza riprovazione. La preferenza data ad una cosa non può sussistere senza l'affronto ad un'altra. E un'assurdità volere l'uno e l'altro. Il bene e il male sono in antagonismo, non solo in astratto, ma anche in concreto. Volere il bene comporta inevitabilmente odiare il male, rifiutarlo. I salmisti avevano una chiara visione dell'antitesi esistente fra coloro che credono e coloro che si mettono contro Dio. La parola di Dio non ci è stata data solo perché sapessimo in chi credere, ma anche come dobbiamo vivere. Se la scrittura non determina il nostro modo di agire, rimane un libro con delle verità teoriche e colui che la legge rimane sempre più colpevole. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Luca mezzogiorno 48. I primi cristiani che abitavano a Corinto avevano dimenticato il principio della santità. Amavano Dio e la sua opera, ma avevano perso questo principio al punto che anche fra loro vi erano comportamenti degni del peggior peccatore. Vi ho scritto nella mia lettera di non immischiarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. 1 Corinzi 5. 8 a 9. Proprio perché il credente non deve essere settario, egli non deve separarsi dagli increduli, ma vi è un altro pericolo di cui deve tener conto: non deve immischiarsi, cioè non essere coinvolto con chi afferma di essere credente in Cristo ed ha un comportamento da fornicatore, avaro o idolatra. La separazione, cioè l'odio divino, non deve essere solo nei confronti dell'incredulo, ma a volte anche all'interno della propria professione di fede, se coloro che si professano cristiani non odiano il peccato. Se non vi è amore senza odio, non vi è neppure comunione senza divisione. Non si può camminare nel consiglio degli empi, fermarsi nella via dei peccatori, sedere in compagnia degli schernitori e avere comunione gli uni con gli altri. L'Apostolo Giovanni lo ha detto molto chiaramente. Se diciamo di avere comunione con Dio e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 1, 6 a 7. E la santità di vita che unisce, non un credo o uno stesso punto di vista. Il vero amore per Dio include divisione, separazione da ciò che è contrario al suo volere. E questo è odio divino. L'ordine perentorio: voi che amate l'Eterno odiate il male. Salmo 97, 10 Amos 5 e un quarto. Se non si è compreso questo aspetto della vita cristiana, non si può neppure comprendere appieno l'amore di Dio. Un ultimo aspetto non indifferente è che chi odia il peccato deve pure avere l'accortezza di non riprendere chi non deve. Così ordina la parola di Dio. Chi corregge lo schernitore si attira vituperio, e chi riprende l'empio riceve ingiuria. Non riprendere lo schernitore, perché ti odierà. Riprendi il saggio, ed egli ti amerà. PR 9.78. Poiché per un cristiano ricevere l'odio è inevitabile, almeno questo tipo di odio è possibile evitarlo. Dio non chiama i suoi figli ad essere masochisti. Terminiamo queste riflessioni con uno degli aspetti più incisivi in merito al nostro tema. Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi, e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. 2 Timoteo 2,19. Oltre questa regola che solo Dio conosce il nostro cuore e che il credente deve odiare il peccato, l'amore umano si trasforma in odio, mentre l'odio divino apparirà agli occhi del mondo e anche dei credenti non accorti, un odio umano. Occorre riflettere seriamente. Isaia 26, 10. Se si fa grazia all'empio, egli non imparerà la giustizia, agirà perversamente nel paese della rettitudine e non potrà vedere la maestà dell'Ende eterno. Chi non condanna il colpevole danneggia il buono. Un contributo per questo argomento: vedere tutto il libro di Donald A. Carson Amare, In condizioni difficili, PU maggio 2010, specialmente pagine 113-155. La guerra può essere l'unico modo di procedere, l'unica autorevole risorsa, meno pag 124. Trattino. Se giusta, la guerra può essere una forma d'amore, meno pag 117. Quando i cristiani che spontaneamente e consapevolmente rifiutano di impegnarsi in una guerra giusta fanno una cosa immorale, falliscono nel mostrare amore verso il 118 ellero.